Attenzione, canale monitor. E oggi a voi. Vabbè, sono sul terrazzo, non quello dove abito, ma un altro terrazzo. E sto vedendo le condizioni del muro per capire se ci poteva mettere un cerchiere, il famoso ottimo per attaccarci uno snodo, non c'è più. Come hanno rifatto il terrazzo, hanno tutto. Allora, dove abiti adesso? No. Nel terrazzo che era di mio nonno. E c'è il fondoschiala qua. Sono pur sempre sul tetto, sul tetto. Volevo mettere una... quella che avevo detto io. Per un giorno di partito che a casa non la posso mettere, ma hanno tolto il tubo, bisognerebbe bucare il muro, ma... sì, e poi la tecnica. E cosa dice? Non te ne fa mettere? Oh, ma io sai cosa metto? Senti, qui porto ombrelloni. Porto ombrelloni da riempire d'acqua, io lo riempio d'acqua. Poi pesa 20 kg, diventate 20 kg. Ci metto un tubo e mezzo e l'antenna in punta, capito? Paletto a 2 metri, l'antenna in punta. E la metto al centro del terrazzo, così anche se si rovescia non cade niente giù, capito? Ogni tanto quando ne voglio salgo me la uso. Già si può fare così, già va bene. Perché hanno rimosso quel tubo che si era infilato nel muro, era un tubo di ponteggio, no? Un palo di ponteggio. Promettevale. Passo, passava un metro e mezzo, 2 metri, dai. E va, che poi devo segnalare a mia zia che il suo vasco sta perdendo solamente. Ok, ho chiamato anche sul PM, qualcuno ha fatto tip, però non ha risposto. Sembra che temano a risposta, cosa c'hanno? Questi sono lì ma non rispondono. Ah, boh, il PMR ce lo aspetto io. Questa è sempre accesa, non c'è problema. Ma strano. Guardare con la radio grande. Ah no, non ci arriva, non te ne frega te. Allora, te l'ho spiegato Marco, è amatoriale quella. 430-440, non ci arriva in PMR. Ma qua siamo nell'LPD, cioè ascoltare poi, no? Lì ci arriva, nell'LPD ci arriva, dai. Oh, per vedere il segnale con la terra esterna è un apparecchio serio. No, qua siamo nell'LPD, non siamo in PMR. E io cosa ho detto? Siamo nell'LPD. E tu cosa vuoi sapere adesso? Il segnale con la stazione tua e l'antenna sopra, grande. Devo staccare questa e attaccarla là, però, una rottura di scatto. No, vabbè, forti te ne dai, forti te. Beh, se gli hai detto di dare con forza. Sì, ne ho grido. Posso vedere PMR, vediamo se... Aspetta, vediamo. Prova a parlare, a vedere se ti sento. Ehi, è quello volevo dire, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, quindi ci arrivo. Ma stai parlando in PMR? No, in LPD. Prova. Non ci capiamo. Ah, in LPD con il portatile stai dicendo. Io volevo che tu con l'antenna di sopra, con la 3 UHF, mi dessi un segnale con uno smitter buono, tutto lì, con l'antenna del tetto e quello che c'è a 100 watt, no? Questa è semi, questa è. Ah, questa, sono già con fondo. Sì, non attenui neanche, sì, fondo scala. E pensare che questo è un PMR vero, è un vero. Sì, fondo scala, 9+60. Smitter analogico. Fa molto, perfetto. Anche un gommino, mi, anche un gommino. Questa mette un pezzo in fondo scala. E va bene. Comunque, okay, quell'antenna la posso mettere, dai. Si tratta solo di comprarla, capito? Di comprarla. La BC202, come ho detto. Sarà abile. Sì, sì, si può fare, come? Sono noi che sono tutti lì qua, no? A parte che a farmi 4 piani me ne è scesa la mazza. Il piano rialzato più altri 3 piani, più l'ultimo piano del terrazzo. Oh, bello, qua ci puoi giocare a pallone, è un bijou. Oh, grande, bello, in piano. Proprio terrazzo, terrazzo proprio. Allora meno male, a posto. Così voglio le terrazze. Fossero stati tutti così, sai quante antenne ci sarebbero state. Ehi. Io. Trovate Giuseppe di là, a cosa, da Nicco stamattina, ci abbiamo preso un caffè assieme. 2 chiacchiere. Vabbè. Anche lui conferma quello che ho detto io. Che l'amico Fritz sta sempre esagerando. Vabbè, prova ad andare in PMR, dai. Già sono qua io. Via. Poi uscirò, entrerò dal baracchino, ricordatene. Via, e è tutto acceso qua, sì. Va bene, dai, non dai. Magari sono tutti qua la vecchia. No, è una persa festa, ma arriva avanti lì. E non fa niente, dai. Va bene, adesso chiudo. Sarei qua, mia zia, dico che sta perdendo la Alfa. Ok? Poi più tardi esco in macchina. Non più tardi, poco più tardi lì. Devo fare delle... Vabbè, oddio. Adesso che ci penso. Dopo non ci servono bene niente. Da piccolo, non so se mi conviene uscirmi. Cosa devi prendere perché? Cosa devi prendere? Io avevo il telefono. Il tubo è stato inserito nel muro, quindi niente di fatto. Userò il portaombrelloni piano da fly, che pesa 20 kg, ok? Tutto è scelto, dai. Vada a voi. Ciao Marco, sono un ascolto su 10, ciao. Ehi, ciao, dopo. Presidente della sezione di Porto Torres. Buonasera a me. Meno male sono qua anch'io, dai. Ogni tanto saluto un amico che sta facendo queste greche sassari. Ben entrato, ok. Avanti, va chi? Ti piace la carne fresca, va bene, c'è anche ragione, adesso a questa età bisogna la carne fresca. Ok, avanti, Tore. Vabbè, Tore, non ho pausa. Tore non può fare nulla ormai.